Tutti sono a conoscenza più o meno del racconto della creazione descritto nel libro della Genesi. Esso viene insegnato nelle famiglie cristiane, nelle chiese che hanno posto la propria fede nella parola di Dio, nelle scuole, nell'ora di religione e di formazione biblica. Il racconto inizia dicendo che Dio, tramite Cristo, creò i cieli e la terra. Il resto del resoconto lo leggiamo nel libro della Genesi, al capitolo 2. L'Eterno Dio formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden ad Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: «Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai per certo morrai». Poi l'Eterno Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui». E l'Eterno Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli, e li condusse dall'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. E l'uomo diede dei nomi a tutto il bestiame, agli uccelli del cielo e ad ogni animale dei campi, ma per l'uomo non si trovò alcun aiuto conveniente per lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò e prese una parte di lui, e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la parte di lui che aveva tolta all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo disse: «Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Lei sarà chiamata donna perché è stata tratta dall'uomo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne». E l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna. Prima di addentrarci in merito all'esame della relazione che deve avere la donna nei confronti dell'uomo, è doveroso credere che il racconto della Genesi sia avvenuto esattamente così come è descritto. Visto da ogni possibile angolazione, tutta la narrazione del secondo capitolo della Genesi è la storia di come l'Eterno creò l'uomo e provvide a tutto il necessario per il suo benessere. Tutte le altre attività riportate nel racconto sono relative all'esistenza, alla natura e ai bisogni dell'uomo, e ciò include la creazione della donna. Ogni altra interpretazione sminuisce la fecondità del messaggio in esso contenuto. Nel primo capitolo della Genesi leggiamo che l'Eterno Dio al sesto giorno crea gli animali e poi l'uomo, cioè Adamo. Dopo aver creato Adamo, l'Eterno Dio valuta che non sia utile per l'uomo essere solo. Infatti, nel regno animale, l'Eterno Dio aveva già creato due esseri diversi, con aspetti diversi e caratteristiche sessuali diverse. Essi non erano soli. Solo Adamo non aveva una compagna, un altro essere diverso e complementare con il quale avere una relazione umana significativa. Così, secondo il racconto, l'Eterno Dio condusse ad Adamo gli animali perché potesse trovare in qualcuno di essi il suo aiuto conveniente, ma Adamo non trovò nessun adatto a lui, non era in grado di stabilire delle relazioni umane con essi. Si trova solo e isolato. Gli animali non erano abbastanza umani, l'Eterno Dio era troppo divino. Così l'Eterno decise di creare un essere che fosse un aiuto degno di lui, con una natura corrispondente a quella di lui. Perciò fece addormentare Adamo e tolse una parte di carne dal suo corpo, e non una costola, e con quella parte formò un altro essere umano come lui, diverso e complementare, avente la sua stessa carne, cioè una donna. Quando Adamo vide la donna disse, ma dalle parole possiamo comprendere che gridò: «Finalmente!». Quel finalmente dimostra quanto Adamo avesse cercato e forse sofferto nella solitudine, senza un aiuto che fosse simile a lui. Questo è stato il primo impatto dell'uomo con la donna. Adamo si è subito reso conto di aver trovato un ausiliare che gli era conveniente. Ciò che ha detto l'Eterno e ciò che ha provato Adamo quando vide la donna dovrebbero essere oggetto di riflessione e di profonda riconoscenza. L'Eterno ha dato ad Adamo un aiuto femminile con le capacità, l'abilità fisica, le risorse e la forza necessarie per esserlo. L'Eterno non ha dato ad Adamo un capo, un dirigente, perché egli investiva già da sé un tale ruolo, ma un appoggio, un sostegno. Questo è il ruolo primordiale e principale della donna concepito nella mente di Dio. La donna è stata creata per essere una collaboratrice a fianco dell'uomo. Nessun animale aveva queste caratteristiche. È vero che in seguito l'uomo soggiogherà gli animali per metterli a suo servizio e quindi potrebbero prendere il posto della compagna dell'uomo, ma la donna è stata creata perché nella sua libertà collaborasse con l'uomo. La tradizione ebraica non considera la donna un derivato dell'uomo, ma un dono che Dio fa all'uomo nel momento in cui questo si accorge di essere incompleto e infelice. Essa gli sarà compagna, collaboratrice, conforto, e questo tanto più in quanto è stata fatta di materia già elaborata e più nobile della materia prima da cui è stato tratto Adamo. Non solo la donna è stata creata per essere un aiuto all'uomo, ma è anche un aiuto conveniente. Sì, perché ci sono tanti aiuti per l'uomo, ma non tutti sono adatti al suo essere umano. La donna è un aiuto conveniente perché innanzitutto completa l'uomo quale creatura. Nessun altro essere vivente, angelico o terreno, è in grado di completare e soddisfare l'uomo, saziarlo fisicamente, moralmente e spiritualmente. La sua umanità poteva essere appagata solo da un altro essere umano come lui, uguale e complementare. E questo può farlo solo la donna, un'altra creatura simile a lui, serbatoio di intelligenza, di amore e di dialogo, che può essere utilizzato per il bene di tutti. Essa aiuta l'uomo nella vita di ogni giorno, nelle umili cose che toccano di fatto ad ogni donna, l'organizzazione domestica, la cura dei bambini, degli anziani e dei malati, l'ascolto e la partecipazione affettiva, emotiva e di intelligenza ai problemi degli altri. Generalmente non mostra i muscoli, ma li usa quando si avvicina all'uomo tanto fragile e bisognoso del suo sostegno, perché se è vero che la donna è il vaso più debole, è implicito che anche l'uomo lo sia. Questa è la donna nella mente di Dio. Questo è il comportamento femminile che è di aiuto all'uomo. Ogni altra posizione della femminilità della donna non solo deturpa il disegno del Creatore, ma crea una tensione nel rapporto tra uomo e donna, dissidi coniugali, inquietudine, che si ripercuote anche nella società. Molto significative sono le parole del dottor Paul Tournier, in un libricino dal titolo, in italiano, Comprendersi fra coniugi, una moglie che parla con sicurezza di ogni argomento e di come bisogna fare e non fare, dà a suo marito l'impressione di essere da lei considerato un incapace. E questo nessun marito lo sopporta. A prima vista una simile affermazione mette in ridicolo l'uomo. Sembra che, in genere, l'uomo abbia un complesso di fondo, ma lo psicologo vuole mettere qui in evidenza che una moglie deve essere, sì, d'aiuto al marito, ma senza in questo prevalicarne il ruolo. E, un po', come il rapporto tra datore di lavoro e operaio. È vero che in un rapporto di lavoro le persone non possano essere paragonate ad una coppia, ma la tipologia del rapporto può esserlo. All'uomo è dato d'essere la guida della donna, e forse purtroppo, visto che a lui spetta la responsabilità dell'andamento del rapporto e di conseguenza, essendo parte subalterna, la donna è chiamata, come l'operaio nei confronti del datore di lavoro, a comportarsi verso il marito senza intenzioni dirigenziali. Mentre un aiuto conveniente è l'equilibrio per un'armonica interdipendenza, direttive fuori luogo sono il presupposto per una relazione difettosa. Saremo in grado di comprendere e apprezzare il piano di Dio che consiste nell'aver creato due esseri diversi ma complementari, solo nella misura in cui i partner impareranno a vivere un'autentica relazione secondo le proprie peculiari caratteristiche. Sarebbe un errore fatale considerare la donna come aiuto conveniente o appropriato, solo nell'ambito del matrimonio. È come guardare una verità da un imbuto o osservare una realtà da un microscopio anziché al telescopio. Ciò che ha detto il Creatore nell'Eden era un principio generale che si estende ad ogni tipo di relazione tra uomo e donna. La donna è un ausiliare, conveniente per sua natura e non relegata solo al ruolo di moglie. Non pochi scrittori nella prefazione dei loro libri ringraziano donne che hanno scritto, letto e revisionato i loro scritti. Vi sono donne che sono l'ombra di uomini di fama internazionale, che ne seguono gli spostamenti e tutti i loro affanni. Altre hanno scritto dei libri di fama mondiale con una acutezza che solo una donna, che vede il mondo al femminile, può fare. Anche l'Apostolo Paolo nelle sue lettere ricorda e ringrazia alcune donne che hanno collaborato con lui. Egli ricorda 8-9 donne già solo nella lettera scritta ai Romani. Che l'uomo lo riconosca o no, la donna è stata creata come l'unico aiuto che fosse a lui conveniente. Certo, come disse una scrittrice, le donne posseggono per natura il potere, pericoloso se usato male, di influenzare la vita degli altri. Però l'aiuto che l'uomo riceve dalla donna, dal concepimento alla morte, è indiscutibile, unico, adatto. Di questo l'uomo deve prendere atto e deve essere riconoscente. E in questo contesto che sono assurdi i soprusi, gli abusi, le indelicatezze dell'uomo nei confronti della donna. La mascolinità maschile nei confronti di una donna è proporzionata al suo venire incontro alle necessità femminili. Virilità non è sinonimo di prepotenza, ma capacità di scendere al piano delle necessità della donna. La donna è stata creata per l'uomo come aiuto, non come strumento sul quale sfogare la propria rabbia, malumori o sensualità. Dobbiamo rimarcarlo, un aiuto adatto è tale fino a che rimane collaborazione, appoggio, sostegno. Diversamente, se la donna sconfina nel ruolo decisionale, autoritario, non solo ha fallito lo scopo per il quale è stata creata, ma assieme all'uomo ha perso l'opportunità di realizzare quella meravigliosa esistenza armoniosa concepita da Dio che li rende simili alla relazione trinitaria. L'aiuto della donna è tale quando il suo agire completa l'uomo e il suo rapporto con lui, e non quando frantuma il carattere del partner nel servirlo e accudirlo per comandare. Poiché l'uomo e la donna sono stati creati ambedue ad immagine di Dio, non vi è nulla di più grande e nessun'altra alternativa per loro che realizzare un legame simile a quello divino, possibile solo se l'uomo rimane di fatto l'aiutato e la donna rimane in ogni sua espressione verso l'uomo l'aiuto conveniente. Giugno 2004, Ellero.